Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble and Fully Self-Enlightened One. Omaggio al Buddha, al Nobile, al Beato e al Pienamente Auto-Illuminato. So this is also a possibility for you to make contributions. Quindi questa anche è una possibilità perché voi diate il vostro contributo. Sì. So yes, this is quanto tempo is how long you want to take the refuge and precepts for. Siccome c'era un po' di confusione riguardo a questo foglio, il quanto tempo in quella casella si doveva indicare per quanto tempo una persona si impegna a rispettare i rifugi e i precetti. Yes. Mm. So usually the minimum is 1 year. Huh? Di solito il minimo è un anno. One week. you can repeat it and start with 1 week and then. Okay. Have you taken precepts, refuge and precepts before, Paola? Lei già presi rifugi e precetti prima di adesso? During the retreat. But did she? Was Paola here for my talk on Friday night? I don't think so. She came on Saturday. No, Friday night is last. Hai sentito il suo discorso dell'altra sera? Ieri sera. Ah, okay. 1 week. No. No, perché non voglio stare bene. Okay. So it's for 1 week she wants to do it really well. Okay. And then she'll probably do it. Okay. Fina dell'anno 2012. It's the end of the year 2012. So this is how many months will we have? 6 years. Can we say 6 months? 6 months. Sei mese. Okay. 1 year. Sei mese. Entro fine. Entro fine anno. Okay. That's 6 months. And acceptable. It's the same. Until November included. Because there's Christmas in December. So what does that mean, with November included? From December he can break the precepts, because Christmas is coming up. Oh, I see. No, it's fair. No. The idea of taking the... the translation of the precepts is training rules. Quindi la traduzione dei precetti è regole di addestramento, di tirocinio, diciamo. Training rules. So, when you take a training rule, for instance, not to take that which clouds the mind, you see? Allora, quando si prende questo impegno, per esempio, il quinto, no? Di non assumere sostanze che offuschino la mente. So, okay. In our culture, taking, beer and wine is just part of our culture. Quindi nella nostra cultura bere vino e birra fanno parte della nostra cultura. Hmm. So it's up to the individual to decide at what level they want to keep this training rule. Quindi dipende dall'individuo fino a quale livello vuole mantenere questa regola di addestramento. And then hopefully once you've chosen your level you will begin to work to bring it down. E dopodiché una volta che si è deciso a quale livello uno decide di stare, poi un po' per volta questo livello dovrebbe poi scendere a zero. Sì. Slowly. lentamente. No need to rush the process. Non c'è bisogno di affrettare il processo. So, why, you know, one bottle of wine a day, one bottle of wine minus half a glass every year, after 20 years, there's no wine. Un bottle a day. Si comincia con una bottiglia di vino al giorno e poi dopo un mese una bottiglia. Un anno. Dopo un anno una bottiglia meno un bicchiere, due anni una bottiglia meno due bicchieri, dopo 20 anni avete eliminato il vino. Till November. That's 3 months, is it? Till November. November is July, August, September, October, November. 5 months. 5 months. Okay. But he's pushed it to six. Yeah, it's okay. Six. Okay, okay. I have a specific date until the 22nd of December. This is Matt. Qualcuno ha messo più. Okay, what's the 22nd? The winter solstice. Oh, is that the winter? Oh, right. Quindi c'è anche una data specifica, il 22 dicembre, che è il solstizio d'inverno. So, can I make just that 6 months? And then you can stop when you feel like. I never had this problem before. Non ho mai avuto questo problema. In Guy's house, I took the precepts. Yes. 3 months, and it was okay. Oh, did I? Did I say that? Yes. Special for Italians, you say. Oh. So, okay. So, yes, I'll do some... tomorrow morning, after the sitting, we'll do the ceremony, you see? Quindi domani mattina, dopo la seduta, facciamo questa cerimonia. Okay. So, okay, cominciamo con le domande, allora. The meaning of Namarupa is also names and things forms. Is it understood that names give, in inverted commas, birth to things, i.e., that things are defined in consequence of names? In the scriptures, it is understood. This is Massimo's question. So, il significato di Namarupa è anche nome e cose, forme. E quindi, secondo le scritture, sono i nomi che danno l'avvio, nascita alle cose. Cioè che le cose sono definite come conseguenza del nome che gli viene dato. Cioè le cose esistono perché gli abbiamo dato un nome, fondamentalmente. Sì, volevo chiedere se è così. Sì, se ho capito questo bene questo fatto. Is this the way esiste questa cosa nelle scritture? Does this exist in the scriptures? That things are as they are because you've given them a name. I think the name comes afterwards. First there's the perception. So when it says nama, it means all the processes of the mind from the point of perception to the point of creating Santara's habits, everything, the whole thing. Quindi il nome viene successivamente alla percezione. Quando si parla di nama si parla di tutto il processo mentale, quindi dal momento della percezione fino alla creazione dei sankhara, delle abitudini e di tutto il resto. For those of you who know the five aggregates, kanda, five kanda. Se conoscete i cinque kanda, cioè i cinque aggregati. Nama refers to the last four. Quindi nama praticamente corrisponde a tutti gli ultimi quattro. Sì. Cioè il primo. The first is rupa, the body. Primo è rupa, il corpo, e tutti gli altri quattro rientrano in so, nama. Perception, feeling, sankhara, percezione, le sensazioni, i sankhara e la coscienza. Yeah. So sankhara, remember, are all our habits which are produced by our intentions. E ricordate che sankhara sono tutte le nostre abitudini prodotte dalle intenzioni. Yeah. So in that process we give things their names. E quindi è in questo processo che noi diamo alle cose un nome. These names contain our concept of what it is that we're looking at. Questi nomi contengono il nostro concetto di che cos'è quella cosa che stiamo osservando. So when I look at this I call it a bottle. vedo questo, la chiamo bottiglia. But as soon as I see this in comparison to all the bottles I've seen. No. Quando la vedo, io la vedo in confronto, paragonata a tutte le altre bottiglie che ho visto nella mia vita. And that's the purpose of concepts, is to put, is to remember things, to put things in context. E quindi questo è tutta la funzione dei concetti, è quello di ricordarti le cose, o meglio, di mettere quell'oggetto in un contesto. No. And if I see something I've never seen before, then my mind scrabbles to fix it in, to make sense of it. E quando vedo una cosa per la prima volta nella mia vita, la mia mente si attiva perché cerca di inquadrarlo in una di queste caselle, insomma, dargli un significato. Last night I heard something coming from up on the hill here which sounded like a dog. Ieri sera ho sentito qualcosa che scendeva dalla collina e sembrava un cane. Did you hear it? It was a fox, eh? Una volpe. Ah, yeah, see. Era una volpe. Although I've seen foxes in England, I've never actually heard them. So this was interesting. Anche se ho visto delle volpe in Inghilterra, però non avevo mai sentita una. Quindi era interessante. So I was standing there listening to this, and I was wondering, what is that? Quindi ero lì in piedi e stavo ascoltando e mi chiedevo, ma che cos'è? So my mind was wondering, is it a dog? Is it a yeti? La mia mente si stava chiedendo, ma è un cane, è uno yeti? I couldn't fix it, you see, I couldn't fix it. Non riuscivo proprio a fissarlo, come dire, a dargli, a collocarlo. Yeah. So in this case there is flasta, but there is no name to give it. That's right. In which case my mind becomes agitated. Well, it didn't become particularly agitated. It was more, in a sense of curiosity, you know, like, what is it? See? But my mind was giving me suggestions all the time. Quindi Massimo dice, beh, in questo caso allora c'era fascia, cioè c'era il contatto, ma non c'era ancora il concetto, diciamo. E Vante dice, sì, effettivamente io stavo cercando di capire quello che avevo udito e sono andato un po' in agitazione, dice, non tantissimo, però ero curioso di sapere che cosa aveva prodotto quel suono. In the end I decided it was a dog, you see. Alla fine ho deciso che era un cane. So this made me feel comfortable. E questo mi ha fatto stare un po' più tranquillo. Even if it was wrong. Anche se era sbagliato. So this is delusion. E questa è l'illusione. Sì. Okay. Yeah. Through meditation, breathing in and breathing out, the target is emptiness. Oh, it's a question. Through meditation, is the target of breathing in and breathing out emptiness? And then in parenthesis she wrote, it happens so rarely. Emptiness, the word in the scriptures, emptiness, is shunya. Sunyata, sunya, sunyata. Quindi sunya o sunyata è la parola in pali che corrisponde a questa idea del vuoto. And when the Buddha uses... I forgot to translate it in Italian. Sì, non l'ho tradotto in italiano. Sì. Durante la meditazione, l'inspirazione e l'espirazione, l'obiettivo è il vuoto. Era una domanda. L'obiettivo è il vuoto. Succede così raramente. The word sunya in the scriptures is a word the Buddha uses to mean anatta. Quindi nelle scritture la parola sunya corrisponde a quello che il Buddha intendeva come anatta. Anatta. So no self, nothing substantial. Quindi un non sé, nulla di sostanziale. In later Buddhism, through the work of Nagarjuna, the philosopher. Sì, nel buddismo successivo, grazie al lavoro di Nagarjuna, il filosofo. This concept which the Buddha kept to the person was extended to the whole universe. Questo concetto che il Buddha riferiva alla persona è stato esteso a tutto l'universo. And that's the more philosophical meaning of sunyata, shunyata, that you might read about in Mahayana literature. E questo è questa estensione del termine, diciamo, sunyata o shunyata, che si trova nella letteratura più mahayana. Sì, in the literature of Theravada, the language is Pali. La lingua della Theravada è la Pali. Pali just means what's the stuff you write on? Parchment. The paper. Paper, yes. Text, paper text, yeah? Sì, quindi pali in realtà significa la, la carta con cui scrivevano a quei tempi, che pergamena. The actual language was Magadhi. Perché la lingua effettivamente parlata dal Buddha, si suppone, era la Magadhi. A Magadhi was one of the Indo-European languages from Sanskrit. Che era una delle lingue indoeuropee derivate dal sanscrito. And it was spoken around present day Benares. Ed è Varanasi, present day Varanasi. Era parlata intorno all'attuale Varanasi. In those days it was called Benares. Però a quei tempi si chiamava Benares. The Mahayana scripture was all written in a later form of Sanskrit. Invece tutta la letteratura Mahayana è stata scritta in una lingua successiva che è il sanscrito. More. It's like you were writing the difference, you're writing something between Italian or Latin. La differenza può essere come quella fra il latino e l'italiano. Così. So this word sunya just means empty of self. Quindi sunya, questa parola in pali, significa proprio empty of self, vuoto di un sé, sì. Cioè l'assenza di un sé. So when we're watching the breath rising and falling. And we've really become the observer. Quando stiamo osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e siamo diventati veramente l'osservatore. We see the breath breathes. Noi vediamo che il respiro si respira da sé. It's part of the autonomic system. The what system? Autonomic. E fa parte del sistema autonomico. And the autonomic system doesn't need me. E questo sistema non ha bisogno di me. Come si chiama? Autonomo? Sì. Autonomous, did you say? Autonomous, yeah. Ah, autonomous. Scusate, non ho capito. What did you say? No, I thought you said orthonomous, something else. I thought it was some technical term. Oh, I see. No, it's just like the digestive system. È un po' come il sistema digestivo. Yeah, it doesn't need us, the body doesn't need us to tell us what enzymes are needed to work on the food. Il corpo non ha bisogno che noi gli diciamo che enzimi produrre perché si processi il cibo. And if you think about it, every cell in the body knows what to do. E se ci pensate, ogni cellula del nostro corpo sa cosa fare. And we don't have to tell it. Non è che glielo dobbiamo dire. And in fact, for 99% we don't know it. In realtà, 99% delle volte non lo sappiamo neanche. One thing I forgot to do this morning during the healing ceremony. Healing practice. Una delle cose che ho dimenticato di fare stamattina durante la pratica della guarigione. Is that after we've offered, or before we offer our goodwill to parts of the body, or afterwards, doesn't matter. Quindi prima o dopo aver offerto benevolenza alle varie parti del nostro corpo. To thank it. Anche di ringraziarlo. To thank it, you see. Thank your nose, thank you. Per ringraziare il proprio naso, grazie. So this gives the right relationship to the body, you see. Perché questo forma una relazione giusta con il proprio corpo. Yeah. What was the question? The question was if the target in the breathing out is emptiness. That's right. Yeah. So, yes. If the target is emptiness, right? Emptiness of the rising and falling, basically. Is that what the target is? Yes. No, yeah. So is it? Well, that's is one the of the. Aim, like, no, that's one of the aims. Sì, questo è uno degli obiettivi. The other aim is to see it as arising and passing away. L'altro obiettivo è quello di vederlo come un sorgere e passare. And of course, when we see it arises and passes away, it's never the same thing. E ovviamente quando vediamo che è un sorgere e passare, vediamo anche che non è sempre la stessa cosa. And this is also understanding anatta. E anche questo è un modo per comprendere anatta. Because one of the definitions of anatta, a soul, a self, is that it is continuous. It doesn't change. Perché un'altra delle Un'altra delle definizioni di anatta of a soul, a self. O di un'anima o di un sé it doesn't change. Che non cambia. No, see, it doesn't change. See, when the Buddha says anicca, dukkha, anatta, impermanence, suffering, unsatisfactoriness and not self. Quando il Buddha parla di queste tre caratteristiche, quindi anicca, dukkha, anatta, l'impermanenza, l'insoddisfazione, il non sé. This is a critique of what people understood by a soul or a self. Era una critica a quello che in quei tempi si considerava un sé o un'anima. And even today, maybe in say in Christianity, when they talk about spirit. E anche oggi nel cristianesimo quando parlano dello spirito. It doesn't change, it can't change, it's always the same. Quindi non cambia, è sempre uguale, non può cambiare. Yeah, if it changes, it must be something else, you see. Perché se cambia, allora deve essere un'altra cosa. Something must die to produce something new, see? Ci deve essere qualcosa che muore per produrre qualcosa di nuovo. And of course if it's in control of itself. E ovviamente è in controllo di se stesso. So if it's in control of itself, it can make itself happy all the time. Quindi se fosse veramente così, se avesse controllo di se stesso, potrebbe rendersi felice continuamente. So all the Buddha is saying, have a look, see if you can find it in this body. Quindi tutto quello che sta dicendo il Buddha è dategli un'occhiata, vedete se riuscite a trovare a trovarlo nel corpo. Is it true of your body? E questo è vero del vostro corpo? Of your emotions. Delle vostre emozioni? Of your thoughts. Dei vostri pensieri? So where is this soul? E quindi dov'è questa anima? So that's what we are it's a way of looking at our experience to see whether there is something within us which doesn't suffer, which never changes, and in his terms, you have to be careful here, which is not a self. E quindi è un invito, insomma, a esplorare la nostra esperienza per vedere se troviamo qualcosa che non crei sofferenza, oppure che non cambi, oppure che non abbia un sé. One of the people I was reading, he's a scholar, he said the Buddha never uses the word anatta when talking about Nibbana. Stavo leggendo qualcosa di uno studioso che dice che il Buddha non parla mai di anatta, non menziona mai la parola anatta quando parla del Nibbana. But on the other hand he doesn't say it is. Ma d'altra parte non dice mai che it is what? It is a self. Non dice mai che è un sé. It's one of those that he left unanswered. Quindi è una di quelle domande che ha lasciato senza risposta. Because whatever answer he gave either made it into something eternal or something nihilistic. Perché qualunque risposta avesse dato l'avrebbe trasformata in nibbana o in qualcosa di eterno o in qualcosa di nichilista. See? So if the Buddha said yes, nibbana is a self, he's an eternalist. Se lui avesse detto sì, nibbana ha un sé o è un sé, allora sarebbe stato un eternalista. And there's a concept, you see, the concept then becomes a problem to experience what is beyond. E quindi diventa un concetto, è un concetto, è un problema perché impedisce di esplorare quello che c'è oltre. If he said no, you see, then he's an annihilationist. Se invece avesse detto di no, che non, il Nibbana non ha un sé, allora sarebbe passato per un nichilista. Nichilista, yeah. So this confused many people at the time. Yeah, ai tempi questo ha creato una today. Grande confusione. Yeah, even today. And oggi. See, and the Jains, who were the other, they were the ones. The Nigantha was an elder contemporary of the Buddha. He lived at the same time quindi, as the Buddha. I Jainisti e c'era erano praticamente contemporanei del Buddha. And what was the name of the Nigantha. The Jains said, the materialists say there's no self. Allora, i Jainisti dicevano, i materialisti dicono che non c'è un sé. We and the Brahmins or some Brahmins say there is a self. Noi e i Brahmini o alcuni Brahmini invece sosteniamo che c'è un sé. But the Buddhists can't make the mind up. Ma i buddhisti non sanno decidersi. So you see a lot of propaganda. C'era molta propaganda. Yeah, is that all right? I don't know how to ask the question. Rosanna ha risposto alla tua domanda. Va bene. Benissimo. Okay. Then how to maintain this peace and clarity in daily life? Come mantenere questa pace e chiarezza nella vita quotidiana? Well, this is the this is our work, eh? Questo è il lavoro. We must have a regular practice to remind ourselves of the level of awareness we want to maintain. Dobbiamo avere una pratica regolare per ricordare a noi stessi il livello di consapevolezza che vogliamo mantenere. Mm. Even if we can only sit for 5 minutes in the morning, it really is worth doing. Anche se possiamo sederci solo 5 minuti al mattino, vale la pena di farlo. And then, just like on retreat, you make an intention to do something, you do it, and then you stop. E proprio come facciamo in un ritiro, si esprime l'intenzione di fare una cosa, si fa quella cosa e poi ci si ferma. Huh. When you eat, there's nothing to stop you putting the spoon, the fork down. Quindi quando mangiate non c'è nulla che vi impedisce di mettere giù il cucchiaio o la forchetta. So it is just a case of stopping, starting, stopping, starting. Quindi si tratta veramente solo di fermarsi, ricominciare, fermarsi, ricominciare. So stop, relax, intend, act. Quindi fermarsi, rilassarsi, intendere e agire. In the some of you might know that in the Thich Nhat Hanh tradition at his monastery in Plum Village they ring this bell anytime. Qualcuno di voi sa che nel monastero di Thich Nhat Hanh a Plum Village in qualsiasi momento della giornata può suonare una campana. Anytime. Somebody is put in charge of the bell and they can ring it anytime. Quindi danno l'incarico a una persona, questa persona può suonare in qualsiasi momento. And as soon as you hear the bell you have to stop. Quando senti la campana devi fermarti. Ding. Then you have to wait. So even if the telephone rings, you have to stop to wait for the three rings, you see. Se suona il telefono vi fermate e aspettate tre suoni. So you can try with your mobiles. Potete provare con i vostri cellulari. Okay. Ding, you know, ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a Okay, l'altra persona aspetta comunque. A three rings, eh? Sono solo tre, come si chiama? Tre su tre. I mean, the mobile phone trumps everything. Trumps me. Trumps, you know, in a card. Trump, you finish, you win the game. Trump, ah. Trump card. Come si chiama? Come si chiama? Alla fine del gioco, ah, vince tutto. Come l'asso piglia tutto. Ah, sì. L'asso piglia tutto, yeah. Quindi il cellulare. Questa azione del prendere tutto. Even a brain surgeon right there. Anche un chirurgo mentre sta intervenendo su un cervello, per esempio, suona al telefono, molla tutto per rispondere. So what, what's the question? So how to maintain this peace and clarity in daily life? Ah, yes. So it is a case of, you see, the problem isn't awareness, the problem is remembering to be aware. Quindi vedete che il problema non è la consapevolezza, il problema è ricordarsi di essere consapevoli. Ah, so we have to play little tricks on ourselves to remind ourselves, oh, this is the time to be mindful. Quindi dobbiamo fare dei piccoli trucchetti che ci ricordino che questo è il momento per essere consapevoli. Yeah. So for instance, all around your house, hanging from the door, you see, you can have these bells, these chiming bells. Per esempio, in casa potete appendere dalle porte queste campane, no? Yeah. So every time you walk through the door, dingle bangle, dingle bangle, oh, sabra. Quindi ogni volta che passate sotto la porta, andate a sbattere nelle campane, yeah. E questo ve lo ricorda. Yeah. You can try all sorts of little tricks to wake up, you see. Potete provare ogni trucco per svegliarvi. Mm. Even have it on computers now. Yes, you can have it on computer. The mindfulness bell si chiama. C'è anche sul computer adesso. Mm. If la campana di consapevolezza. Yes, if you Google mindfulness bell. Su Google mettete mindfulness bell. And you can set it for any time you want. Potete metterlo, scegliere voi il tempo. Yeah. So 20 minutes, 40 minutes, you see something, ding, ding, ding, ding, and then it goes ding. Quindi per esempio sono state scrivendo al computer o lavorando, facendo qualcosa, poi sentite questo suono di campana e vi fermate. Three times. Tre volte. Enough? Basta, sì. Basta, ho scritto la domanda. La pratica meditazione nella vita di tutti i giorni. Cosa fare quando la malattia costringe a stare a letto o la tosse disturba il respiro? Let me just translate in English for Max. Oh, yes. So it says, what to do when an illness, sickness, forces you to stay in bed. Or if you have such a bad cough that this disturbs your breathing. If you're ill, it's difficult to do vipassana. Se sei malato, è molto difficile fare la vipassana. You can try. The usual thing is metta. La cosa normale, usuale da fare è metta. Mm. Sì. Very simple metta, very simple. Just keep repeating, you see. Quindi una metta molto semplice, continui semplicemente a ripetere. If you have a bad cough, the cough itself is your object. Se invece hai una brutta tosse, è la tosse stessa che diventa il tuo oggetto. So you feel the tickle and then you cough, you see, and then you go back to your meditation. Quindi sentite il formicolio, nella gola, tossite e poi tornate al vostro oggetto di meditazione. Yeah, that's not a problem. Anche quanto tempo prima risposta di 35 minuti là, si consiglia mezz'ora nel massimo, un'ora come abbiamo fatto qui, mattino, sera. Since this is the first time for her, you suggested even 5 minutes, but what is the ideal time? Would it be for 30 minutes, 40 minutes? Is it better in the morning or in the evening? No, I think you usually find the advice is 40 minutes is a good time in the morning. Il consiglio di solito è di fare almeno 40 minuti in the morning. And in the evening, the same, but half an hour. But when you come back from work, or definitely before you eat, E la sera anche 40 minuti o 30, però prima di mangiare, quando uno torna dal lavoro. Yeah. If you do it after you eat, you practice sleeping meditation. Se vi sedete dopo aver mangiato, allora praticate la meditazione del sonno. Which is good for you, but there's no insight. Vi farà bene, però non c'è nessun insight. And then you know, not to be doing something busy or watching some fast TV program, and then you throw yourself into bed. E poi consiglio di non fare qualcosa di molto attivo, diciamo, mentalmente, no? Come guardare qualcosa di veloce in televisione e poi andare subito a letto. Because you know the mind is too busy. You have to stop at least half an hour before you want to sleep. La mente poi è troppo attiva e quindi occorre fermarsi almeno mezz'ora prima di andare a dormire. Listen to some beautiful music, practice metta, read something which is inspiring. Potete ascoltare della musica o fare metta o leggere qualcosa che sia di ispirazione. Or just sit there letting the thoughts of the day come up and a little diary, you see. Potete anche solo sedervi e far emergere i pensieri che sono, insomma, si sono vissuti durante la giornata. Potete anche tenere un diario. Sì, then you sleep better. E poi potrete dormire meglio. How many people do that here? How many people stop for half an hour before you go to bed and quieten down? Anybody do that? C'è qualcuno che lo fa, che si ferma mezz'ora prima, almeno mezz'ora prima di andare a dormire. Sì. No sleeping meditation. No. Kind of meditation. I sometimes meditate, sleeping meditation, but I highly recommend it for people, especially women in menopause, who say that they can't get to sleep because they sleep very well. When you do? If I meditate before I go to bed, I just sleep really well. Can you say that? Sì, Andrea suggerisce comunque di meditare prima di andare a letto, anche se potrebbe trasformarsi in sonno, soprattutto alle donne che magari sono in menopausa, hanno difficoltà ad addormentarsi, perché è un ottimo modo per accompagnare, diciamo, il sonno. Sì. Sì. Sì. Vabbè. Next question. Sì, next question. Top one, eh? By the way, do make suggestions as I'm talking. I sometimes forget to ask for suggestions. Se avete delle cose da dire o dei suggerimenti, fatele pure anche mentre sta parlando. Allora, does Nirvana mean the end of free will? Il Nirvana significa la fine del libero arbitrio? Free will is a concept which was developed by Saint Augustine. Questo libero arbitrio è un concetto sviluppato da Sant'Agostino. It was all to do with the love of God. E aveva a che vedere con l'amore per Dio. This is how I understood it, you know. Maybe somebody else has a different understanding. Questo almeno come l'ho compreso io, forse qualcun altro ha una l'ha capito in modo diverso. God made us to love him. Quindi Dio ci ha creati perché noi potessimo amarlo. But if he created us with that simple ability to love him, then it wouldn't be real love. We'd be automatons. Però se ci avesse creato con questa semplice abilità di amarlo, non sarebbe un vero amore, perché saremmo come degli automi. He didn't create evil, it just happened because of Lucifer. Lui non ha creato il male, questo è venuto, cioè si è verificato a causa di Lucifero. But we are in the middle, we are tempted by Satan into all the things that are not good for us, and we are also attracted towards God, you see. Noi siamo proprio nel mezzo, siamo tentati da Satana verso tutte le cose che non ci fanno del bene, però allo stesso tempo siamo attirati da Dio. So every time I make an intention to move towards God, to love God, and this is really coming from me, it's a real love, you see. Quindi ogni volta che io faccio, esprimo questa intenzione di avvicinarmi a Dio, allora questo è il vero amore, io dimostro di amare Dio. Both in, I think I'm right in saying, both in ancient Greek and Roman understanding. E questo sia nel pensiero, diciamo, greco e romano. And even in the Buddha's and Eastern understanding, there's no such thing as free will in that sort of absolute sense. E anche nel pensiero buddista non c'è questo concetto del libero arbitrio, almeno non in questo senso assoluto. So for instance in the Buddha's teaching we make decisions which are seen as something which are of benefit to us. Quindi negli insegnamenti buddisti noi prendiamo delle decisioni che sono viste come delle decisioni che ci portano dei benefici. So it's driven by a motivation to make us happy. E quindi siamo spinti da una motivazione verso qualcosa che ci renderà felici. We discover that these intentions we're making are actually making it worse for us. Scopriamo che queste intenzioni in realtà non fanno che peggiorare le cose. So then we wake up, we begin to meditate, we come to Vipassana courses. Allora ci svegliamo, cominciamo a meditare, veniamo ai corsi di Vipassana. And through discernment we discover a different path. E grazie al discernimento, alla capacità di discernimento, scopriamo un sentiero nuovo, sentiero diverso. So as soon as we see what's good for us, then of course we do it. Quindi appena vediamo quello che ci fa del bene, ovviamente lo facciamo. And the will supports that discernment. Ed è la volontà sostiene quel discernimento. So for instance, if you go for a walk in the countryside. Quindi prendiamo per esempio, andate a fare una camminata in campagna. And you come to a fork in the road. Arrivate a un bivio. So now you have so-called choice. E qui avete una scelta. So-called. Cosiddetta. But actually, you know where you want to go. You want to go to this mountain. Però in realtà voi sapete dove volete andare, che strada prendere, perché volete andare a questa montagna. So you take your map out and then you realize that this is the path. Quindi tirate fuori la cartina, vi rendete conto che questo è il sentiero. Mm. So you go along the path until you reach a mountain. E seguite il sentiero fino ad arrivare alla montagna. So there's no free will, eh? E quindi non c'è nessun libero arbitrio. And there's no choice. E non c'è scelta. Ah. Now, think about your life. When have you been most happy? Pensate alla vostra vita. Quando è che siete stati maggiormente felici? Isn't it when you've done exactly what you want to do? Non è quando avete fatto esattamente quello che volevate fare? No. It wasn't a choice, it was something you felt you had to do. Eh? Non è stata una scelta, è stata una cosa che avete sentito che dovevate fare. It comes to us as a choice. Ci arriva come se fosse una scelta. But this choice is actually expressing confusion. Ma in realtà questa scelta esprime una confusione. So you fall in love with somebody. Allora immaginate di innamorarvi di qualcuno. Did you decide it? L'avete deciso voi? No, it just happens, eh? No, succede. And then after a while, you have to make a decision. Are you going to carry on with this or are you going to leave it? E poi dopo un po' dovete prendere una decisione. Continuate in questa relazione o la mollate? And what you're waiting for is more information. E quello che state aspettando è maggiori informazioni. So if the information is coming to you where you think you're going to be happy in this relationship, then you move towards development that relationship. Quindi quando le informazioni arrivano che in qualche modo vi confermano che potreste essere felici in questa relazione, allora andate nella direzione della relazione. Do you see that? Is that clear? Riuscite a vederlo? Vi è chiaro? You see that the whole of the consumerist society can delude us in thinking that we have a choice. Tutta questa società consumistica ci illude nel senso che ci fa ritenere di avere una scelta. We have an enormous choice. You can have chocolate black chocolate, you can have chocolate with milk, you can have chocolate with nuts. This is an amazing choice. Potete avere cioccolato con dente, cioccolato al latte, cioccolato con le noci, questa è un'incredibile scelta. You're now exercising your free will. Adesso potete esercitare il vostro libero arbitrio. So you see it's a big con, it's what we call a con, it's a big what's the word for it? You know, when you're being tricked, when you're being fooled. È una fregatura. Ecco, una fregatura. So from the Buddhist understanding, we're not concerned with choice, we're concerned with what is the thing I have to do to become really happy. Quindi nel buddismo non interessa tanto la scelta, ma piuttosto quello che dobbiamo fare per essere veramente felici. Sì. Agostino diceva: conosco il bene ma faccio il male. Come la mettiamo? Say the in English. You say I know the good, yes, but I do the bad. Yes, right. And so the free will is supposed to renounce to the bad. That's right. In order to go to the good, but right. This renouncing is not always so easy. No. So you see, in Buddhist understanding, when you renounce something, this is the virtue of renunciation. Nel buddismo, quando si rinuncia a qualcosa, questa è la virtù della rinuncia. And you're renouncing something in order to see your attachment. E rinuncio a qualcosa per poter vedere il tuo attaccamento. You see? And you're allowing the attachment to pass away. E stai permettendo questo attaccamento di passare. Now that doesn't mean to say you have to give it up if it's ethical. You can re-establish a proper relationship with it. Questo non vuol dire necessariamente che ci devi rinunciare, perché se è una cosa etica, ma devi semplicemente ristabilire una giusta relazione. And that's what we've been practicing with the eating, you see. Ed è quello che abbiamo esercitato, insomma, ci siamo allenati a fare con il mangiare. And one of the exercises that I know some of you have heard me say is to, you know, get yourself a nice cup of tea or coffee with a lovely biscuit and sit in front of the television. Uno degli esercizi che ho consigliato è quello di prendervi una buona tazza di tè o caffè, un biscotto e sedervi davanti alla televisione. Just when your favorite program or the cup final of these European games, the European football, is on. Quando stanno dando il vostro programma preferito oppure la finale di questa Coppa Europea. So there you are sitting with your biscuit and your cup of tea. Quindi siete lì col vostro biscotto, la tazza di tè. And don't turn the TV on. E non accendete la TV. Then you see the attachment. Allora lì riuscirete proprio a vedere l'attaccamento. Isn't that you are exercising your free will then? You're exercising will, yeah. But it depends what you mean by free. There's more awareness, so it's more free. Well, it depends what, you see, as I understand Augustine, this free will is something which exists beyond the intellect. It's something belongs to the soul. Yeah. You see? E quindi dice, vabbè, ma qui non stai esercitando il libero arbitrio, ma dice l'arbitrio, cioè la volontà, ma quello che contesta è questo, la parola libero, no? E secondo Sant'Agostino, da quello che ha capito Dante, questo libero arbitrio sarebbe qualcosa di come dire, dello spirito, dell'anima, una cosa al di là della personalità. Yeah, whereas the will in Buddhist understanding is just another mechanism in the mind. Mentre invece, secondo il pensiero buddista, la volontà è solo un altro meccanismo della mente. What we call free will is really a mask for the craving is what. The delusion is that we're actually making choices, but it's not. The craving is so intent, the intent is so strong that it impulses us to do that, appears as a choice. Yeah, that's right. I didn't get that, Vincent. I can't repeat it in simple words. Quindi è un'illusione il fatto che stiamo facendo delle libere scelte. In Buddhist terms, it would feel like it's a craving that. It makes the impulse so strong that it feels like a choice. Quindi secondo il pensiero buddista è in realtà un attaccamento che è così forte che ci spinge verso la soddisfazione di quel desiderio che ce lo fa sembrare una scelta, però è una scelta illusoria. You know that these neurobiologists have shown that decisions are made before the person is aware of them. Sapete che queste ricerche che hanno fatto nel campo delle neuroscienze dimostrano che le persone in realtà scelgono prima di esserne consapevoli. And then they do a sort of double take and feel that they actually made the decision. E poi c'è una sorta di meccanismo per cui loro in realtà pensano di averla presa loro quella decisione, come se ritornassero indietro sui loro passi e hanno l'illusione di aver scelto loro. Sì. Well, this in Buddhism is the unaware life. E questo nel buddismo è la vita non consapevole. When we're aware of these intentions. Quando siamo consapevoli di queste intenzioni. And this is when we feel we're in control of our lives, you see. E abbiamo questa idea che siamo in controllo della nostra vita. Yeah, it's a funny one. È buffo. Sì. That means that you can choose. Once you've seen the pleasant Vedana, you can choose if follow it or not. Yes, but remember that the choice is guided either by the Dhamma, righteousness, or by illusion. You see what I mean? It's not free will up here somewhere. The will is just empowering your understanding. That's all. Quindi Massimo dice, però quando tu hai una situazione piacevole puoi scegliere se perseguirla oppure no. E quindi lì sembrerebbe una libera scelta. E Bante gli ha risposto che in realtà la scelta è tra seguire il Dhamma oppure seguire una tendenza a non salutare. Ma non è un libero arbitrio al di fuori di noi, al di sopra di noi. It's determined by your understanding. Sì, quindi questa scelta è determinata dalla tua comprensione. Sì. Sì. Va bene. So there is no guilt. If you choose the bad, it means that you didn't have understanding. So there cannot be any guilt. That's what happens if you have no understanding. Quindi vuol dire che non c'è senso di colpa, perché se uno agisce perché non ha compreso, allora non ha nessuna colpa. E lui dice sì, se la scelta è dovuta alla non comprensione. In fact, that's how you define a psychopath. In realtà è proprio così che si definisce uno psicopatico. They don't have any guilt or shame. Non hanno nessun senso di colpa, nessuna vergogna. I think it's okay. And they often rationalize their decision, you see. E spesso razionalizzano le loro decisioni. And we do it to a much lesser extent, of course. E lo facciamo anche noi, a un grado minore, ovviamente. Often we might do something which we justify, you see. E spesso facciamo delle cose che giustifichiamo. Even though we know it's not moral. Anche se sappiamo che non è morale. See, we justify. I remember there was a time when I was well, a little bit of a Marxist. C'è stato un periodo in cui ero un po' marxista. And I saw nothing wrong with taking things from shops. E non vedevo nulla di male nel prendere le cose dai negozi, l'esproprio proletario, si diceva. I mean, after all, they were filthy capitalists. Alla fine cos'erano? Erano degli sporchi capitalisti. Allora, Jesse. Ok. Se la meditazione vipassana è una pratica fondamentalmente individuale, come trasmettere agli altri il senso di questa esperienza e qual è il ruolo del sangha? So, if vipassana meditation is fundamentally an individual practice, how to convey to others the sense of this experience? And what is the role of the sangha? Well, I think you can say something a little bit about vipassana, just express your experience of it. Ma io credo che si possa parlare ad altri della vipassana, esprimere la propria esperienza. Yeah. I mean, remember, there are two parts. There's the part which is purifying the heart. Ricordate che ci sono due parti. C'è la parte che purifica il cuore. And the other part is trying to understand how we create suffering. E l'altra parte è il cercare di capire com'è che creiamo la sofferenza. Yeah. I don't know, would anybody have difficulty with that? No, c'è qualcuno che avrebbe difficoltà a parlarne agli altri? Yeah. Sì? Yeah, I think it mostly depends on the type of audience that you're facing. Because we were actually talking about that with Dean before. Like, when I go home, what will I say to my friends? Because there are zero basis regarding meditation, zero basis regarding Buddha, if not... As I was just like 10 days ago, I said, so what do you think? They will for sure ask, for sure, and maybe with curiosity, but what do you say? So they can get, and they can, they will not feel like either cut off or feel like being able, wanting to tied up in front of this experience. Can you say that in Italian? Mi domandavo, cosa poter raccontare agli amici una volta che uno torna a casa dopo questa esperienza, ad amici che non hanno nessuna conoscenza della meditazione, neanche basilare e neanche di Buddha, esattamente come ero io 10 giorni fa. E cosa gli si racconta, come glielo si può raccontare in modo che possa essere... approcciabile e senza generare in queste persone magari un senso di frustrazione o di allontanamento o generare ancora più un senso di chiusura nei loro confronti verso questa nuova idea pratica. I think you just have to my problem when that happens is to say too much. Il mio problema quando questo accade è di dire troppo. I mean, just express your experience. Cioè, esprimi la tua esperienza. you know, and don't be afraid to confuse them or make mistakes. Non devi avere paura né di confonderli né di fare degli errori. I think the main thing is that they will begin to sense that there is some difference in you, which they will, you know, will want to, I don't know, but they will see a benefit. Io penso che percepiranno che c'è una differenza in te e quindi è una cosa che loro vorranno conoscere e di cui vorranno beneficiare. When I was teaching, I was a teacher and I had a colleague and she asked me, you know, what meditation was about. Quando insegnavo avevo una collega che mi ha chiesto cos'era la meditazione. Now I didn't know her very well. Non la conoscevo molto bene. But you know, just from the look of her, I had decided she was a Church of England, ordinary middle class person. Non la conoscevo, però solo guardandola io avevo avuto questa impressione che era una donna della Chiesa d'Inghilterra, della borghesia, insomma una donna ordinaria, diciamo. I don't know why I said it, but I said, well, it's a bit like praying. Non so perché l'ho detto, comunque mi è venuto fuori di dire, beh, è un po' come pregare. And she says, oh, that was it, finished. E lei l'ha praticamente liquidato, ovviamente, è finita lì. Ah, but now what could I say? No, it's not really like praying. Allora, a quel punto cosa potevo dire? No, veramente non c'entra niente, non è come la preghiera. I lost a convert. Ho perso la possibilità di convertire qualcuno. So you just say what you feel is, you know, I wouldn't worry about it. Dice quello che si sente di dire, non mi preoccuperei troppo. Volevo dire che è qui perché in un certo modo qualcosa ho cominciato. Ah, sì, ecco, sì. Sì, ecco. In English. I said also she's here today because something got communicated. Yeah. I don't know if I said a great deal, but anyway, because friends. Sì, il motivo per cui è qui da Lorenzo è perché qualcosa le è stato comunicato da Gautam. I think that I'm talking about myself, but starts with an idea of the person you have in front of you. If you feel that they are open to listen, then you speak very freely, no yeah, problem. Yeah. But if you feel that they are not open to listen, no. You're not very comfortable. No. You're not very comfortable. So something like that maybe I learned through this retreat, yeah. And I will see. che tutto dipende per me stesso dalla persona con la quale sto parlando. Se percepisco che una persona che è disposta ad ascoltare è tutto molto semplice e facile, uno dice quello che è. Se la persona invece non sa o percepisce che non è disposta ad ascoltare, lì sorgono i problemi su come approcciare la cosa e vedrò, scoprirò. Mi pare che Dante aveva detto che una definizione di meditazione, non mi ricordo in che discorso, ha detto qualcosa come che la meditazione è una tecnica per fermare la sì. Pensiero discorsivo. Sì. Did you say something? Sì. I think that God is right. Sì. So this could be a definition. Meditation is a technique, could be also sì. A technique to stop the mind chatting. Yeah. Yeah, you could say that, but most people, if you said it's to stop the mind, they would think that it would be asleep or something. Sì, quindi si potrebbe definire così la meditazione, cioè un modo per fermare la mente discorsiva, però se lo dicessi a una persona che serve a fermare la mente, loro potrebbero pensare che è una cosa che ti fa addormentare in qualche modo. I think probably the way I sometimes approach it is that, you know, the Buddhist teaching is about suffering, unhappiness, and how we create it for ourselves. Io, modo per spiegarlo alle persone è proprio riferirsi agli insegnamenti del Buddha. Il Buddha ha insegnato la sofferenza o l'infelicità e come noi ce la creiamo. Yeah. And that vipassana is a way of trying to understand that process, trying to understand. E la vipassana non è altro che un modo per cercare di capire quel processo. And then if they say, well, what's it about? They say, you have to go on retreat. Quando ti chiedono, beh, di cosa si tratta, allora gli rispondete, beh, vai a farti un ritiro. And I know this amazing teacher. E io conosco questo incredibile insegnante. Hey, why not? Ma io sempre definito la meditazione come un incontro con se stessi. She's always defined meditation as a meeting point with oneself. Yeah. A way to meet oneself. Yes, yes, to investigate yourself, to find out more about, yes, to understand. Per investigare, per conoscersi meglio. I mean, it's, yes, I mean, in that sense, all our psychotherapy is concerned with that same thing, isn't it? Yeah, anche la psicoterapia è, cioè, riguarda tutto questo. I find it hard when somebody asks me about meditation because they want to, they suffer from headaches. If you think of vipassana, it's just like, well, you can do this, but you'll just have other pain. You want a headache? Che quando chiedono perché vogliono provare meditazione perché soffrono molto proprio di mal di testa e queste cose, però è difficile proprio di dire sì, può aiutare, però ci sarà anche altro dolore. In un certo senso è meglio. Yeah, difficult. Che cosa ce ne chiedevo il ruolo del sangha. The sangha is your support system. Quindi sangha è il tuo sistema di sostegno. I mean, in the traditional sense, it's those people who have attained an insight into nirvana. In senso tradizionale al sangha appartengono quelle persone che hanno ottenuto un insight, quindi un'intuizione nel nirvana. Yeah, and when we take the refuge and precepts, those are the people you're putting your confidence in. Quando prendiamo i rifugi e precetti è in quelle persone che noi mettiamo la nostra fiducia. Diciamo. Because they are witnesses to the Buddha's teaching, you see. Perché loro sono i testimoni degli insegnamenti del Buddha. But in a much wider sense, it's our support group. Ma in un senso più ampio è il nostro gruppo di sostegno. So for this retreat, we've been each other's sangha, you see. Per questo ritiro ognuno di noi è stato sangha degli altri. And it's so much easier, you know, to practice with other people than it is by ourselves. That's all. Ed è molto più facile praticare con altre persone che da soli. Yeah, I mean, in everything in life, if you have to decorate your house, it's always nice to have somebody with you. Decorating with you, it makes you more happy, and so on. È la stessa cosa nella vita, quando dovete dipingere la casa, è più bello farlo in compagnia di altri. Yeah. So that's a sangha. Quindi questo sangue. È il valore del sangue. Sì. You want to go? You have to go, sì. Sì. So, che cosa ce ne facciamo della nostra identità? What shall we do with our identity? Mi avevo già chiesto l'identità. We don't worry about identity so much as worry about be concerned with the way it manifests. Quindi non si preoccupare troppo dell'identità, ma piuttosto di come si manifesta. Identity is only a relationship. Perché l'identità è solo una relazione. I am angry. Io sono arrabbiato. Now, don't worry about the I, worry about the anger. Non preoccuparti del io, preoccupati della rabbia. Ah, forget the I, you see. So every time, forget about the I. Dimenticati l'io. Ah, just worry about being angry, being greedy, being horrible, etc., etc., etc. quindi ti racconti solo di essere arrabbiata oppure avida e via di seguito. And the less we become angry, the less our negative qualities die away, the more our negative qualities die away, the more the sense of I is dying away. Quindi più si riducono le nostre negatività e più si riduce il nostro senso del Dio. Ah, you see? Sorry. I ate that cheese. Yeah. The I expresses itself in its basic sense as a conceit. Quindi nel suo senso di base l'io si esprime come questo che in inglese sarebbe la presunzione. Yeah. I, which is always a comparison. Che è sempre un confronto. I am better than you, I am worse than you. Io sono meglio di te, sono peggio di te. And I am equal to you. E io sono uguale a te. Now most people would say, oh well, that's humility. Molte persone direbbero, ah, quella è umiltà. But actually you're joining a group. Ma in realtà ti stai mettendo con un gruppo. And this group is either better or worse than other groups. E questo gruppo è o meglio o peggio di altri gruppi. You see? So all we have to be aware of is how the I manifests. Don't worry about the I. Quindi dobbiamo solo preoccuparci di come questo io si manifesta. Non preoccupatevi dell'io. So, for instance, with your with your spouse or with your partner, you see. Per esempio, con il vostro coniuge o il vostro partner. Now that you've understood dependence origination. Che avete capito l'originazione dipendente. In a profound and deep way. Profondo. You can't say you make me angry. Non potete più dire tu mi fai arrabbiare. You can't say you make me bored. Non puoi dire mi fai annoiare. You can't even say you make me happy. Non potete neanche dire mi fai felice. It's a problem, eh? That's it. Any additions? Any? C'è qualcosa da aggiungere? No. Vado avanti. You define body, heart, mind. Which entities do you refer to in the scriptures? Citta, mana. So, body, heart, and mind. Si. Basically, how they express in the scriptures. Okay. You say in Italian? Ah, sì. Hai definito il corpo, il cuore, la mente. Quindi, a quali entità si riferiscono nelle scritture? Si chiamano citta, si chiamano mana. There's a very good book written by an English academic. C'è un libro scritto da uno studioso inglese. I don't think it's been translated, unfortunately. Ma non credo sia stato tradotto. It's by Sue Hamilton. Sue Hamilton è l'autrice. Susan Hamilton. Susan. She has a very good book on identity. Ha un bellissimo libro sull'identità. In it she shows that the Buddha doesn't use words in a hard way. E qui dimostra che il Buddha non ha usato le parole in un modo duro. It all depends upon context and what he's trying to explain. Dipende tutto dal contesto e da quello che cerca di spiegare. But generally speaking, we can say that the body is rupa. Però in generale possiamo dire che il corpo è rupa. That the mind as a sense object. Where it touches the brain is manas. E che la mente come organo di senso, laddove entra in contatto col cervello, è manas. When he uses the word citta, he seems to be more with this intuitive, with the heart and mind. Quando usa invece il termine citta, esprime più questo corpo, questa mente cuore. And with vijnana, he normally means the discriminative consciousness, the just consciousness, how we translate consciousness. Invece vijnana, che è un'altra parola per mente, è più connotato di coscienza discriminativa. A sort of cognition. È più la facoltà di cognizione. So knowing this is a bottle, you see, that would be vijnana. sapere che questa è una bottiglia, questa è vignana. See, then there's panya, all happens, you see. Panya means this intuitive awareness. Poi c'è panya, e panya è questa conoscenza intuitiva, consapevolezza intuitiva. This intuitive awareness. Intuitive, yes, intuitive awareness. So it's an intuitive grasp of things, you see, not intellectual. Quindi è un afferrare le cose intuitivamente, non intellettualmente. Sì, così. But that's. But these words change in meaning, you see, who he's talking to and in the context. Però cambiano di significato secondo del contesto. Sì, va bene. You spoke of sleep imbalances. What is a good number of hours to sleep every night? Quindi hai parlato di squilibri del sonno, diciamo, disturbi del sonno. Qual è il giusto, un buon numero di ore in cui dormire tutte le notti, ogni notte? 4. I think in daily life, you need 7-8 hours, no? Penso che nella vita quotidiana forse avreste bisogno di 7-8 ore. When you don't live such a stressful life, or you feel more at ease, you may find 5.5 hours is good enough. Se vivete una vita non troppo stressante, siete a vostro agio, 5-6 ore sono sufficienti. Remember that we sleep in these patterns of 1 3/4 hours. Ricordatevi che la sonno, il ciclo del sonno segue questi patterns, diciamo, di un'ora cycles, e mezza, cicli di un'ora e mezza. Three quarters. 1 hour and 3/4. Un'ora e tre quarti. Sì. So that's why if you wake up after an hour, you feel disoriented. È per questo che quando ti svegli dopo un'ora ti senti un po' disorientato. Going back to this idea of a self. E quindi per tornare a questa idea di un sé. So some of you, I'm sure, will have woken up either like that or in a hotel where you don't normally sleep, and as you wake up you don't know where you are. Alcuni di voi hanno avuto questa esperienza di svegliarsi in uno stato confusionale. Come per esempio quando siete svegliati in un albergo e per un attimo non sapete bene dove vi trovate. Yeah. So you see there, sheer despair and panic. Vedete lì proprio un puro disperazione e panico. Yeah. I don't know where. Who am I? Chi sono? See? And then the mind goes berserk. Oh, I'm here. E poi la mente per un attimo sembra impazzire e poi dopo dice ah sì sono qui. Yeah. So this is. We're actually in those moments experiencing the death moment. In quei momenti stiamo proprio sperimentando il momento della morte. So if you want to get used to death, go to strange hotels. Se volete abituarvi a morire, andate in questi alberghi estranei. Yeah, very good. Is that it? Yeah. So about sleep, you said, yeah. Okay, yeah. You answered, right? You said that there is nothing solid, that everything depends on something else, so it's interdependence. Could you elaborate on this? Italian. Hai detto che non c'è niente di solido, che tutto dipende da qualcos'altro, quindi questa interdipendenza. Puoi spiegarlo un po' meglio? Well, it depends how you define an entity. Quindi dipende da come si definisce un'entità. So, if we define an entity as self, what's the word? Self-organizing and self-dependent. Quindi se definiamo un'entità come una cosa che si organizza per conto suo ed è indipendente. That doesn't need anything outside itself. È come se non avesse bisogno di nulla al di fuori di sé. Yeah. So where is that? E quindi dov'è? Where is that? Yeah, where is it? Where's this entity? E quindi dov'è questa entità? So when we look around the world, we see actually everything exists in some dependency on something else. E quindi se guardiamo nel mondo, vediamo che ogni cosa esiste perché dipende da qualcos'altro. But the mind conceives things as entities. Ma la mente concepisce le cose come se fossero delle entità. So when you look at a tree, a big tree, you think, "Wow, look at that." Ho detto un albero grande, dice, accidenti, guarda lì. But we don't see the effect of the sun, how the water is coming up. Eh? We don't see any of this process. Ma non vediamo l'effetto del sole o l'acqua che viene assorbita dalle radici. Yeah. Non vediamo niente di questo processo. No, all we see is the tree and the mind turns it into an entity. Quello che vediamo è l'albero e la mente lo trasforma in un'entità. Yeah. So we ourselves feel an entity. E quindi anche noi ci sentiamo un'entità. But when we actually look at ourselves, we find that we're totally dependent on the outside world for even our sanity. Ah, se guardiamo bene, capiremo che noi siamo totalmente dipendenti dal mondo esterno anche per la nostra salute mentale. Mm. The Buddha talks about four nutriments, you see, four things that we need. Il Buddha parla di quattro nutrimenti, quattro cose di cui abbiamo bisogno. I always forget these. The first one is food for the body. Il primo è il cibo per il corpo. The next one is I get confused. There are so many lists that in the end I stop learning them. Ci sono talmente tante liste che poi tanti elenchi che alla fine I stop learning them. Smetto di impararli. I've got it here. Ahara. Yeah, ahara. Do you remember? That's something else. Those are the things for monks. The requisites. It's material food. Material food for the body. Cibo materiale per il corpo. Sensorial food for feelings. E quindi cibo sensoriale per le sensazioni, per le sensazioni come sentimenti. Yes. Mental volition to make things happen. La volizione mentale che ci permette di far sì che le cose accadano. And consciousness itself, which feeds the mind and the body. È la coscienza stessa che nutre il corpo e la mente. Mm. But if you think about in a more general sense, all our thoughts are given to us, aren't they? Però se ci pensate in un senso più generale, tutti i pensieri è come se ci fossero dati. Mm. I mean, everything I've said during this retreat, I could properly trace to some book or something that somebody said to me. Qualcosa, tutto quello che ho detto durante questo ritiro, forse potrei ricondurlo a qualcosa letto in un libro o qualcosa che mi è stato detto. Mm. I mean, I've jumbled it around because of my own personal experience, but all of it's come from somewhere else. Io ho probabilmente rigirato e l'ho messo insieme sulla base della mia esperienza personale, però tutto viene da qualcosa, da un'altra parte. Sì. So now, feeling myself an entity, I might think to myself, oh, you know, I am the thinker of these thoughts. Allora, pensando di essere un'entità, potrei dire a me stesso, io sono il pensatore dei miei pensieri. Right. So this was the great delusion of, what was the woman, Atlas Unbound? The American woman. Anne Rand, you say, yes. Now there she was, she was the goddess of the right wing. E questo quindi è la grande illusione della... Anne Rand, wasn't it? That's right, Ayn Rand. Che sembrava essere proprio la... La goddess of the right wing. La dea della destra. Mm. And her books was about... You taking control of your life and making it because of your will. E i suoi libri erano tutto su tu devi prendere il controllo della tua vita e farcela grazie alla tua forza di volontà. Mm. So, for instance, people who were very successful in Silicon Valley presumed that they had done this all themselves. Le persone che avevano avuto successo nella Silicon Valley pensavano di essere stati loro a ottenere tutto questo. And they really believed it, that they were the creators of their factory, of their firm. Yeah. E loro ci credevano veramente, che loro erano i creatori della loro fabbrica. Hmm. As though all the workers and all the other people who put their stuff into it, you know, were sort of automatons, you know, they weren't. Come se tutti gli altri lavoratori o tutti quelli che avevano messo il loro lavoro erano solo così degli automi. Mm. Sì. So this is the great conceit, isn't it? E questa è la grande presunzione. Mm. What was the question? So no, just to elaborate on it, on the interdependence. Okay. Hey, how much questions have we got? Oh, yo. We have to. I think we have to. I can't answer them all. Too many. I have to. I'm taking too much time. We must stop in say 5 minutes. Right? Then we have to have a break. And then we come back. Sit for else in the mind. Should we be interested in the content of our dreams as useful information, or are they merely a fiction about a fiction? Dreams. Our personality, self. Basically, sui sogni. Dovremmo essere interessati ai contenuti dei nostri sogni, come se fosse una informazione utile, oppure sono solo una finzione di una finzione? Well, it just seems that there are different levels of dreams. This is true for me. Sembra che ci siano diversi livelli di sogni. So I think most of our dreaming is just what Freud called wish fulfillment. Molti dei nostri sogni sono quello che Freud chiamava una soddisfazione dei nostri desideri, che non riusciamo a soddisfare nella vita. And worries of the day and preoccupazioni della giornata. But sometimes some deep communication is made through dreams, I think. A volte credo che una profonda comunicazione si verifica attraverso i sogni. Apart from that, all the Buddha says about dreams is that when we do something in a dream, the karma, you see, because there is will, the karma is so small it doesn't have an effect. L'unica cosa che dice il Buddha rispetto ai sogni è che quello che noi sogniamo di fare, dunque, c'è una volontà, però è talmente debole che questo karmicamente non ha un effetto. So don't worry if you murder somebody in your dreams. Quindi non preoccupatevi se assassinate qualcuno nei vostri sogni. Let's try and go through quickly. Do you still read literature? Is it worthwhile to do so? Sì, in Italia. Sì, se legge ancora la letteratura, se vale la pena di farlo. The Maharaji Sayadaw said that. Sorry, was it just another form of entertainment? Sì. O solo un'altra forma di divertimento? The Maharaji Sayadaw said that any reading of Western literature or philosophy was unwholesome. Maharaji Sayadaw diceva che qualsiasi lettura di letteratura occidentale non era salutare. What to say? So most serious artists are trying to express their experience of life and their understanding of life through their art. Molti artisti seri stanno cercando di esprimere attraverso la loro arte la loro esperienza di vita. And it's the same with music and poetry, everything like that. Questo vale per la musica, la poesia. So as far as I'm concerned, this is a form of communication. Per quanto mi riguarda è una forma di comunicazione. And it's just another form of communicating with other people, isn't it? E si tratta solo di comunicare con le altre persone. Sì. I mean, it depends what the literature is, that's all. Dipende solo da cos'è, che tipo di letteratura. So it's the same with films, television. You have to ask yourself, why am I watching this stupid program? È lo stesso per il film, la televisione. Uno deve chiedersi perché sto guardando questo stupido programma. After the process of deconstructing, separating body from heart and from mind, where is the center of man to be looked for? Okay, in Italian. Dopo il processo di decostruzione, di separazione separare il corpo dal cuore e dalla mente, dov'è il centro dell'uomo che va ricercato o trovato? Well, that is the question. E questa è la domanda. Il problema. This is the problem. Questo è il dilemma. So that's what we're seeking. Ed è proprio questo che stiamo cercando. I was just thinking whether what the Buddha would say with that question. Sto pensando cosa direbbe il Buddha questa, come risponderebbe il Buddha a questa domanda. I think he would say it's the wrong question to ask. Risponderebbe, questa è la, una domanda sbagliata da porre, o meglio, la domanda è posta in modo sbagliato. Yes, because to think of a center is to give you a point in relationship to something else. Perché pensare a un centro è come darvi un punto di riferimento in relazione a qualcos'altro. But there's no reference point to Nibbana. Ma non c'è nessun punto di riferimento nel Nibbana. It is beyond reference, he says that very clearly. Perché è oltre le, i riferimenti, e questo lo dice molto chiaramente. How to deal with the fact that one should eat meat or fish for health reasons, and that at the same time that person also likes this type of food. Oh, yes, okay, go on. In Italiano. Come affrontare il fatto che uno dovrebbe mangiare carne o pesce per motivi di salute e che allo stesso tempo quella, a quella persona piace questo tipo di cibo. It's a Western thing about the Buddha being, about Buddhism being vegetarian. Il fatto del buddismo come vegetarianesimo è una questione di tutto occidentale. It is in the East, but in a small way. C'è anche in Oriente, ma in forma minore. Buddhist monks in Burma will pass a season without eating meat, for instance. Ci sono dei monaci in Birmania che in una stagione non mangeranno carne, per esempio. And there, the Chinese monks also tend to be vegetarians. E anche i monaci cinesi tendono ad essere vegetariani. Yes, and when I was in Sri Lanka, the abbot of the monastery proudly said to me that they were vegetarians. E nello, quando sono stato nello Sri Lanka, l'abate del monastero mi ha detto molto orgogliosamente che erano vegetariani. And during that first meal, they served fish. Per primo pasto mi hanno servito del pesce. So when I asked a friend of mine why, you know, I said I thought we were vegetarians. Allora io ho detto a un mio amico, dico, ma non erano vegetariani? He said, oh well, in Sri Lanka they think fish are automated self-propelling vegetables. Allora mi ha risposto, beh, qui nello Sri Lanka loro pensano che i pesci siano dei automated. I have to do it the other way around. Italian. Cioè, no, delle verdure autopropellenti e automatiche praticamente. So the Buddha's teaching about animals suffer. That's all. Sì, quindi gli insegnamenti del Buddha sono che gli animali soffrono. So all you have to decide is what is your position in the chain of meat and animal products. Quindi quello che dovete decidere è qual è il vostro posto, la vostra posizione in questa catena della carne o dei prodotti animali. And if you feel okay with being in that chain where you are, because you're not killing the animal, then that's fine. Se voi vi sentite a vostro agio di essere in questa catena lì dove siete e mangiate carne, beh, non state uccidendo l'animale, allora va bene stare lì dove state. And some people need meat, it seems. E pare che alcune persone abbiano bisogno di carne. But it, I wouldn't make a big thing of it, you see. Ma io non ne farei una questione importante. Yeah, it's more in a sense again of if you don't feel comfortable to slowly come off meat. Si tratta semplicemente se non vi sentite a vostro agio è lentamente ridurre la carne ed eliminarla. Monks and nuns are in a privileged position. I monaci, le monache si trovano in una posizione privilegiata. Because we receive alms food. Che noi riceviamo il cibo dalle offerte. And but if we know that the animal, that say a chicken was killed for us, then I can't eat it. Se io so che quel, per esempio, il pollo è, no, la gallina, quello che è stato ucciso per me, allora non lo posso mangiare. But if it's something that is you know, made and cooked for other people, and then I come along with my bowl and you give me a bit, then I can receive it. Però se è stato cucinato, preparato per altre persone, io arrivo con la mia ciotola, me ne dai un pezzo, allora lo posso mangiare. And we have to, generally speaking, you have to receive what's given, whether you like it or not. E poi dobbiamo accettare quello che ci viene dato, che ci piaccia o no. If you feel you're taking too much, you can put your hand over the bowl. E se senti che ne stai prendendo troppo, puoi mettere la mano sopra la ciotola. But that sense of just receiving, mainly for the benefit of the giver, you see. Quindi è quel senso di ricevere, ma principalmente come atto che va a beneficio di chi dà. So that the person gets the good karma of offering, you see. Così che quella persona riceva il buon karma derivato dall'offrire. And there was a case in the scripture where a leper was putting something into the monk's bowl. C'è questo esempio nelle scritture quando, dove un lebbroso stava mettendo qualcosa nella ciotola di un monaco. And his thumb fell in. E gli è cascato il pollice. And the monk was very grateful. Il monaco era molto riconoscente. He doesn't say whether he ate it or not. Però non dice se l'ha mangiato o meno. I think these are apocryphal stories which grew up in time to show that one had to receive what was given. Credo che sia una storia apocrifa che aveva solo lo scopo di così di dire che bisognava mangiare tutto quello che veniva donato. Okay, how to deal with death that can cause, that one can cause to creatures like insects, mosquitoes, etc. Already answered in yesterday's talk, she said. Okay. When one calls himself or herself a Buddhist, and how does this relate with anatta? When does one call himself a Buddhist? And how does this relate with anatta? Yes, as I say, don't worry about this anatta. It gets all very, very, very confusing. Non vi preoccupate di questo anatta, perché diventa una cosa molto confusiva. When I'm offering love to myself, I say, may I be happy. Quando io offro metta a me stesso, dico che io possa essere felice. And what I'm referring to is this psychophysical organism. E quello a cui mi riferisco è questo organismo psicofisico. That's me. Sono io. That's enough. E basta così. So if I say I'm a Buddhist, it's me. This psychophysical organism is a Buddhist. E allora quando io dico sono un buddista, mi riferisco a me. Questo organismo psicofisico è un buddista. The problem is whether you attach to the idea of Buddhist too much. Il problema è quanto ci si attacca a questa idea del buddismo, se diventa troppo. And if this begins to become a conceit. E se questo comincia a diventare una presunzione. Yeah. I'm right, everybody else is wrong. Io ho ragione, tutti gli altri hanno torto. Then is a problem of an I, you see. Ma allora lì sì che c'è il problema di un io. The Buddha's teaching moves us towards a very good and beautiful sense of self. Gli insegnamenti buddistici portano nella posizione di un bellissimo senso del sé. And then we can get rid of it. E poi ce ne possiamo sbarazzare. It's very difficult to get rid of something which is schizophrenic. È molto difficile liberarsi di qualcosa che è schizofrenico. So first of all, we try to make ourselves beautiful, a beautiful self, and then we get rid of the self. Quindi prima cerchiamo di trasformare il nostro sé e renderlo bello, e poi ce ne liberiamo. And we're left with just beauty. E poi quello che rimane è solo la bellezza. That's it, you see. That's the Buddha's trajectory. E questa è la traiettoria buddista. Last one, because this one that was crossed out. Good. That book in which Nibbana is seen as our true self. Could you please tell the title and the author? Yeah, I should write it somewhere. Il libro in cui Nibbana è visto come il vero sé. Well, no, it doesn't. That's going too far. It doesn't say the real self. That's no, going allora, too far. Questo è un po' esagerato. Non dice che è il vero sé. No, it's just giving a very positive expression of Nibbana. No, semplicemente dà una espressione molto positiva del Nibbana. See? There are two traditions in Theravada Buddhism. Quindi sono due tradizioni nel buddismo Theravada. And one would seem to tell you that Nibbana is a blackout, a sort of Yeah, blackout. No, sembrerebbe implicare, insomma, dire che il nirvana è una sorta di blackout. Like deep sleep. Come un sonno profondo. Mm. And the other side is about awakeness. Invece l'altra parte, l'altro aspetto è il nirvana come un risveglio, essere vigili. Actually, this also is in Hinduism. In realtà questa c'è anche nell'induismo. Where you have what's it called? Satchitananda. Satchitananda means consciousness, bliss. Being, consciousness, bliss. Cioè l'essere, la coscienza e la beatitudine. So this is awakeness, but it also has the darkness, nirvikalpa samadhi. E poi c'è anche l'aspetto però dell'oscurità, che è questo che ha detto. And we also have a similar thing in Christianity. E abbiamo anche una cosa simile nella cristianità. Because Saint John of the Cross talks about nada, nothingness, you see. Perché Saint John of the Cross, San Giovanni della Croce, ha parlato di nada, nothingness, la nulla. Il nulla. Whereas in the Eastern Church they see the transfiguration of Christ as that consciousness. Mentre invece nella Chiesa orientale ortodossa vedono the transfiguration, la trasfigurazione del Cristo come with his the transfiguration of Christ. It was, do you remember the occasion when with his three disciples he turned into this glorious figure? Vi ricordate come quando con i tre discepoli si è trasformato in questa figura di gloria? You know your Bible, no? Conoscete, no, la vostra la Bibbia? So this is the glorious body, is it? Questo è il corpo di gloria. Sì. So this book really is showing that in the Theravada scriptures Nirvana can also be seen as this bright consciousness. Quindi questo libro vuole solo dire che anche nelle scritture Theravada il Nibbana è vista come questa coscienza luminosa. I can give that if you want it and you don't get the name of, send me an email. Se mi dimentico di darvelo potete scrivermi un'email. That's it. So we got the sadhu, gracias. Yes, that's right. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. May you be liberated from all suffering sooner rather than later. Che possiate essere liberi dalla sofferenza prima piuttosto che poi. So I'll put these.